Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Played it for her, he played for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. Anaconda sitting in her Honda, feeding in the parking lot. I had a heart, but she slayed me and she took me apart. Anaconda, call her by Yolanda, kissing in a 4x4. Her bedroom door has a lock and a window pane. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. It never costs much, but I tell you I'm not done yet. I do it again. I think I must. If I will win, I think she likes me. Come again, and I think she'll teach me how to swim. Waiting for the backseat show. She's go, go, go. And I'm shaking my pom pom bonbons. Now she's swimming in the deep in the jungle. Nile isn't far away. And I must say that I'd give her to her any day. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. I must confess, I'm hardly depressed. Oh yes, she's coming again. I think she likes me. Come here again. I think tonight I'm gonna win. She'll let me swim. Well, let me in. Solo. I 15 giorni seguenti restammo insieme nella buona e nella cattiva sorte. Quando ci svegliamo decidemmo di andare insieme con l'autostop fino a New York. Lei sarebbe stata la mia ragazza in città. Previdi inaudite complicazioni con Dean e Mary Lou e tutti. Una stagione nuova. Prima dovevamo guadagnarci i soldi necessari per il viaggio. Terry si era messa in testa di cominciare subito con i 20 dollari che mi erano rimasti. A me non andava. E da perfetto idiota considerai il problema per 2 giorni, mentre leggevamo le offerte di lavoro di certi assurdi giornali di Los Angeles, che non avevo mai visto prima in vita mia, nelle tavole calde e nei bar, finché i miei 20 dollari si ridussero a 10 o poco più. Eravamo molto felici nella nostra cameretta d'albergo. Io mi alzavo nel cuore della notte perché non riuscivo a prendere sonno. Tiravo le coperte fin sulle nude spalle brune della mia piccola e scrutavo la notte di Los Angeles. Che notti brutali, ardenti, lamentose di sirene. Proprio dall'altra parte della strada c'erano guai. Una vecchia casa d'affitto cadente e mal ridotta era la scena di una specie di tragedia. L'auto della polizia era ferma, là sotto, e i poliziotti stavano interrogando un vecchio con i capelli grigi. Dall'interno giungevano singhiozzi. Potevo sentire tutto, insieme col ronzio dell'insegna al neon del mio albergo. Non mi ero mai sentito così triste in vita mia. Los Angeles è la più deprimente e brutale città d'America. New York è fredda da morire nell'inverno, ma in alcune strade c'è in fondo un senso di rude cameratismo. Los Angeles è una giungla. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Make it alone. I always want to be by your side. I've been lost, but I believe in you. Won't you see me through? Whoa-oh. The winter's gonna tear up a hole for all we have to carry inside. I've been down, but you can take me higher. Won't you light my fire? Whoa-oh. But the road is long. Under the golden sun, we need to find a way. Under the cold blue stars, we need to find a way. And in the city now, we need to find a way. I could never make it alone. I always want to be by your side. I've been lost, but I believe in you. Won't you see me through? The winter's gonna tear up a hole for all we have to carry inside. I've been down, but you can take me higher. Won't you light my fire? But the road is long, under the golden sun. We need to find a way, under the cold blue stars. The city night, we need to find a way. I could never make it alone. I always wanna be by your side. I've been lost, but I believe in you. Won't you see me through? Whoa-oh. The winter's gonna tear up a hole for all we have to carry inside. I've been down, but you can take me higher. Won't you light my fire? frequenze sono quelle di Rock FM, la voce è quella di Giulia Caperdoni, la trasmissione è eclettica e così tutte le sere fra le 19 e le 20. Eclettica che si è aperta in questa sua seconda parte con il duo di origine taiwanese ma di base newyorkese di nome Misha con il brano Anaconda da un album d'esordio che contiene tante piccole perle, questa è solo una, mi pare che ne abbiamo già ascoltate 4, non vorrei sbagliarmi, estratte da questo album, perlomeno 3, forse addirittura 4. Poi è stata la volta degli svedesi di Göteborg, per la precisione Irene, che incidono per Labrador. Ormai ho sviluppato un orecchio, non so se è successa la stessa cosa anche a voi con anni e anni di ascolti. Parte una canzone e io riesco a capire se questa canzone, pur essendo cantata in inglese, arriva dalla penisola scandinava. Non so, c'è un modo di approcciare sia l'uso della lingua, della pronuncia inglese, ma anche della musica che è una sorta di tratto comune delle esperienze che arrivano da quella terra. Irene, che incidono per la Labrador, che sono usciti il 1° d'agosto con un nuovo singolo, By Your Side, che è quello che ci siamo appena ascoltati. Ed ora invece ritorniamo ad ascoltarci Juan Mordecai, esperienza tutta italiana che deriva da quella dei Karma, che aveva lasciato tanti nostalgici, e quindi questi Juan Mordecai in pratica vanno quasi a colmare un vuoto, ma non sono solo ex Karma all'interno dei Juan Mordecai. C'è anche un ex After Hours, poi sono sicuro che se volete trovare ulteriori dettagli con la rete riuscirete a trovare tutto quello che vi serve. Silently kill, rip me down and cut me slow. Whispering me the sweet flesh soul, cold, cold, cold, silently in a dear embrace. My heart, take and lilies from my grave. On a fine sunny day, gentle grace, sweetheart infliction. Oh, sick beans in a yellow sun, protesting innocence, but suddenly killed. My heart. And what in heaven's name brought you to Casablanca? My health. I came to Casablanca for the waters. The waters? What waters? We're in the desert. I was misinformed. South Main Street, dove Terry e io andavamo a passeggio con panini imbottiti di salsiccia, era una fantastica fiera di luci e di frenesia. Poliziotti in stivaloni perquisivano qualcuno praticamente in ogni angolo. Sui marciapiedi formicolavano gli individui più mal ridotti del paese. Tutti sotto quelle dolci stelle della California meridionale che si perdono nell'alone bruno di quell'enorme accampamento nel deserto che è in realtà Los Angeles. Si poteva sentire odore di tè, di erba, voglio dire di marijuana, aleggiare nell'aria insieme con quello dei peperoni con fagioli e della birra. Quel grande indiavolato fluttuare di bebop echeggiava dalle birrerie, mescolava insieme fantasie di canzoni di cowboy e boogie-woogie d'ogni genere nella notte d'America. Tutti assomigliavano a Hassel. Negri sfrenati con berretti da suonatori di bebop e pizzetto passavano ridendo, poi avventurieri stracciati coi capelli lunghi venuti dritti da New York per la statale 66, poi vecchi topi del deserto che portavano cartocci ed erano diretti verso una panchina del parco al Plaza, poi pastori metodisti con i polsini sfilacciati e ogni tanto qualche santone tipo Nature Boy con barba e sandali. Avrei voluto conoscerli tutti, parlare con tutti, ma Terry e io eravamo troppo occupati a cercare di guadagnare qualche soldo insieme. Questo era ancora Sulla strada di Jack Kerouac. Thank you. Detto di quanto vi siete ascoltati, cioè due brani di band su cui già ho speso parole nelle scorse settimane, nella fattispecie prima The Desert Fathers con The Art of Reason e poi Moom con Dancing Behind My Eyelids, chiudo con un'altra novità, una novità che sarà nei negozi di dischi dal mese di ottobre, per la precisione dal 9 di ottobre, una novità che proviene da New York City, è un sestetto, però ruota attorno alla figura di Thomas Bartlett, un album melanconico, assolutamente melanconico, With My Left Hand I Raise the Dead, è questo il titolo dell'album, dal quale ci ascoltiamo in chiusura di Eclettica quest'oggi, Chasing Clouds. Loro sono i Dovemen. Don't you know? Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 46, volume numero 4, indice, Early Mart, The 90s, The Maccabees, Travis Morrison Hellfighters, The Pains of Being Pure at Heart, Stateless, Misha, Irene, Juan Mordecai, The Desert Fathers, Moom, Doveman. Giulio Cappardoni vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.